24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'atteso voto favorevole del Bundestag tedesco al nuovo piano di aiuti per la Grecia. Un'insolvenza di Atene avrebbe conseguenze incalcolabili, aveva avvertito la cancelliera Angela Merkel. Intanto fervono i preparativi per il prossimo Consiglio europeo. Oggi ampia pagina sul Consiglio affari esteri che ha varato nuove sanzioni contro la Siria, mentre l'Italia finisce ancora al centro di una procedura sanzionatoria comunitaria. Ancora per i rifiuti. Infine vi portiamo a Barcellona, attualmente capitale dell'innovazione mondiale. In apertura è il voto favorevole del Bundestag tedesco al secondo pacchetto di aiuti per la Grecia. Per il sì ha votato un'ampia maggioranza, 496 parlamentari contro 90 no, 5 gli astenuti. Il Bundestag ha così accolto l'appello lanciato ieri pomeriggio dalla cancelliera Angela Merkel. Un'insolvenza incontrollata di Atene avrebbe conseguenze incalcolabili anche per l'economia tedesca, ha affermato la Merkel. Per questo vi chiedo di votare per il secondo pacchetto di aiuti ad Atene, ha aggiunto. La cancelliera ha però smorzato le aspettative per l'incremento del fondo salva stati. Il governo tedesco non vede per ora la necessità di un dibattito per l'aumento del fondo ESM con il fondo IFSF, ha precisato. Nessuno può dare una garanzia di successo al 100% sul piano di aiuti. La Merkel ha poi concluso: come cancelliera posso e devo assumere dei rischi, ma non posso lanciarmi in percorsi avventurosi, lo proibisce il mio ruolo. Il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha convocato una riunione dei ministri delle finanze dell'Eurozona per giovedì alle 14 a Bruxelles, 3 ore prima del summit dei 27 leader. All'ordine del giorno il punto sullo swap dei titoli greci e l'applicazione delle azioni prioritarie chieste ad Atene. Il presidente della Commissione europea Giuseppe Barroso ha invitato il primo ministro greco Lucas Papademos a una riunione mercoledì 29 febbraio a Bruxelles, alla vigilia del Consiglio europeo, per discutere le possibili iniziative che l'esecutivo comunitario può prendere per aiutare la crescita, l'occupazione, le PMI e i giovani in cerca di lavoro in Grecia. Intanto si diradano le nubi sulla crisi italiana, gli investitori stranieri tornano a comprare i titoli di Stato della penisola e servizio. Cresce la fiducia dei mercati nel nostro paese. Secondo il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli e il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, l'interesse degli acquirenti esteri per i nostri titoli di Stato è da leggersi come uno dei segnali di crescita della fiducia verso l'Italia da parte dei mercati, certificato anche dai partner del G20 e da organismi come il Fondo Monetario Internazionale, la BCE e l'Unione Europea. Il governatore ha spiegato che dopo la fuga della scorsa estate da parte delle banche e degli investitori stranieri, in parte compensata dagli acquisti dei risparmiatori italiani, si avverta ora un cambio di rotta. Anche il viceministro Grilli, fino a poco tempo fa direttore generale del Tesoro, si dice soddisfatto della tendenza in atto, tendenza che sembrerebbe confermata anche dall'asta del Tesoro, che è riuscito a collocare tutti gli 8 miliardi programmati, con richieste per oltre 11. In calo i rendimenti. Il tasso medio dei BOT a 6 mesi è pari all'1,2%. Solo 3 mesi fa il tasso schizzava sopra il 6%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il numero uno della BCE, Mario Draghi, sottolinea che l'Europa dovrebbe seguire il modello della Germania sul fronte delle riforme strutturali. Sentiamo Alessandro Merli. Draghi ha detto sostanzialmente una cosa: l'Europa, che resta un po' l'area più critica dell'economia mondiale, andrà probabilmente incontro in alcuni paesi a una recessione, anche se non grave, e restano dei rischi sui mercati finanziari legati alla crisi del debito sovrano. La BCE farà mercoledì una nuova operazione di fornitura di liquidità alle banche, perché il credito non sta circolando e quindi c'è bisogno di dare un po' di fiato all'economia. Draghi ha sottolineato anche i progressi che sono stati fatti da molti paesi sul fronte sia del consolidamento dei bilanci pubblici, ma anche delle riforme strutturali, in particolare delle riforme del mercato del lavoro. Naturalmente è un argomento molto caldo anche in Italia. Draghi ha voluto osservare che è una strada sbagliata, lui non ha citato esplicitamente l'Italia, quella di voler proteggere a tutti i costi i posti di lavoro invece di tutelare i lavoratori, magari ricollocandoli, e ha indicato l'esempio della Germania, dove le riforme del mercato del lavoro molto incisive sono state fatte, e infatti in questo momento la Germania esce dalla crisi con un tasso di disoccupazione molto più basso che altri paesi europei. Grazie all'inversione di rotta di Wall Street, Milano ha dimezzato ieri le perdite, col FTSE MIB che ha chiuso a meno 1,09%, Milano Francoforte meno 0,07% e Parigi meno 0,57%, dopo una seduta che procedeva in rosso dall'apertura sulla scia del deludente G20 in Messico. Grazie all'inversione di rotta di Wall Street, Milano ieri ha dimezzato le perdite, col FTSE MIB che ha chiuso a meno 1,09%, addirittura meglio Francoforte, meno 0,07%, Parigi, meno 0,6% e Londra, meno 0,33%, dopo una seduta che procedeva in profondo rosso dall'apertura, sulla scia del deludente G20 del Messico. A Piazza Affari giù le principali banche, depresse sia dall'andamento deludente del settore in Europa, sia dalla fine del divieto di vendite allo scoperto. Così UbiBanca, sui timori legati al dividendo, ha perso il 5,9%, Montepaschi il 5,1% e il Banco Popolare il 4%. La peggiore, tuttavia, è Finmeccanica, meno 6,3%, che ha pagato la presunta indagine in India su un appalto da 1,5 miliardi. In cima al listino, invece, continua a correre Telecom Italia, più 3,3%, grazie agli elogi di Moody's per il taglio dei dividendi. Brillano anche Impregilo, più 1,8%, dopo l'accordo tra Atlantia e Gavio, e Mediolanum, più 1,1%. Sul resto del listino balza anche Premafin, più 3,2%, sull'ipotesi di un convertendo da 150 milioni che verrebbe sottoscritto dalle banche creditrici. Ciò Condina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. Ora l'ampia pagina sul Consiglio Affari Esteri svoltosi ieri a Bruxelles è fatta, così il ministro francese Alain Juppé ha riferito ai giornalisti sul via libera europeo alla Serbia affinché Belgrado ottenga lo status di paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea. Qualche sorpresa in realtà potrebbero determinarla giovedì le resistenze di Lituania e Romania, anche se non paiono insormontabili. Dopodomani la Serbia potrebbe dunque compiere lo storico passo. I ministri degli esteri europei hanno approvato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Siria, colpisce il settore finanziario ed economico, in particolare le transazioni della Banca Centrale Siriana e l'export di metalli preziosi, misure restrittive anche per i voli cargo e per 7 ministri. Dal Consiglio Affari Esteri è emerso anche un riconoscimento del Consiglio Nazionale Siriano quale legittimo rappresentante delle opposizioni, così il ministro italiano Giulio Terzi. E l'Europa ha deciso di congelare i beni e bloccare i visti di 21 responsabili dell'apparato giudiziario e poliziesco in Bielorussia, ritenuti responsabili della repressione dell'opposizione. Voltiamo ora pagina. Bruxelles apre nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per almeno 102 discariche, di cui 3 di rifiuti pericolosi, non conformi alla direttiva europea del 1999 in numerose regioni. E l'Italia, con Romania e Cipro, è finita nel mirino della Commissione per non aver adottato pienamente norme a tutela del consumatore in materia di etichettatura energetica per gli elettrodomestici più performanti nel risparmio di energia. Attraverso una riprogrammazione di 3,7 miliardi di euro realizzata con le regioni del sud interessate, l'Italia ha messo in sicurezza i conti, creando i presupposti per evitare il rischio di perdere risorse dell'Unione Europea nel 2012, così il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca. La norma sull'IMU per la Chiesa è stata informalmente sottoposta alla Commissione Europea per avere conferma, sempre in via informale, che la procedura di infrazione sia chiusa. Non vorrei destabilizzare questo meccanismo. Così il premier Mario Monti, intervenendo ieri in Commissione Industria al Senato. Mosca potrebbe accordare un aiuto finanziario diretto ad alcuni paesi europei, come ha già fatto con Cipro. Ad annunciarlo il premier e candidato presidenziale Vladimir Putin in un articolo elettorale sulla politica estera pubblicato sulla Moskovskie Novosti. E ci trasferiamo ora a Barcellona, capitale in questi giorni dell'innovazione europea e mondiale. Da oggi a giovedì Barcellona ospita il Mobile World Congress, il più importante appuntamento mondiale per l'industria della telefonia mobile. Ma la geografia inganna. L'Europa è sì ancora oggi l'area del mondo con più telefoni per persona, 129 ogni 100 abitanti, ma per dimensioni totali del mercato l'Asia ci ha superato e soprattutto per innovazione gli Stati Uniti hanno riguadagnato la leadership con i sistemi operativi che controllano gli smartphone, iOS di Apple, Android di Google, Windows Phone di Microsoft, BlackBerry di RIM. Tutti in gara per conquistare un mercato che nel 2011 è cresciuto del 58% rispetto all'anno prima. Quasi un terzo dei telefoni venduti sono smartphone, 472 milioni su un totale di quasi 1 miliardo e 800 milioni di telefonini. E dire che c'è la crisi. Assente Apple, che alle fiere non ha mai messo piede, a Barcellona ci possiamo aspettare una valanga di nuovi prodotti Android, da Asus, LG, HTC, Sony, Samsung e dai cinesi di Lenovo, Huawei e ZTE. Microsoft, che mercoledì presenterà un'anteprima di Windows 8, punta invece su Nokia. Un ultimo dato riguarda le sottoscrizioni alla banda larga mobile, che nell'ultimo anno sono salite in tutto il mondo ad 1 miliardo. Non è un caso che oramai nella telefonia mobile l'innovazione arrivi sempre più dal software e dai servizi internet in mobilità che nascono da un'app.